Drago, senti, la primavera. Vabbè, primavera. Primavera Hawaii. No, perché oggi è San Valentino Hawaii. O Valentino Hawaii, non so. Vabbè, comunque, allora auguri a tutti gli innamorati. No, è innamorata Hawaii. Ma perché parli come i giovani di oggi? Hai 40 anni. La gara Hawaii, ne avessi 40 Hawaii. Quanti ne hai? 42 Hawaii. Quasi 43 Hawaii. Vabbè, e a 42 anni, quasi 43, ancora parli col suffisso Hawaii. Tu parli come Arbore. Io mi sento giovane Hawaii. E tu ti senti Arbore Hawaii. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, da oggi cominciamo la storia del Wunderwaffer a puntate. Sì, il testo l'hanno scritto gli svizzeri, quindi non sarà divertente. Ma perché metti le mani avanti? Sono sicuro che l'hai scritto tu. No, quindi... no, in realtà hai ragione sul fatto che non l'hanno scritto gli svizzeri, per carità. Però io l'ho appaltato alla stagista ventenne. No, quella del Wunderwaffer sotto le ascelle. Eh sì, proprio non si lei. Può, Drago, ci hanno telefonato per dirci che se facevamo ancora una cosa così ci licenziavano. Sì, basta, però stavolta fondi, no, basta, ma stavolta Wuffer, la stagista tutto. Si è tenuta bassa, bassa così, beh, bassa che siamo al grado zero della creatività, cioè proprio la anche storia. Anche tu, scusa, affidarti a una stagista ventenne. Non ti ricordi cosa è successo a Clinton? Sì, ok, ma la sua stagista ne aveva 21 di anni e non scriveva testi. La storia del Wunderwaffe, prima puntata. Non si conosce con precisione quando sia nato il Wunderwaffer. Tralasciando le testimonianze a riguardo rintracciabili sulle tavolette in lineare B, non del tutto accertate, sappiamo che il nome del Wunderwaffer echeggia già nei cantari medioevali che raccontano la storia di Guglielmo Tell, eroe svizzero. Durante la guerra franco-prussiana e la prima guerra mondiale, alla Svizzera viene concesso di mantenere una posizione neutrale a patto che condivida con i paesi limitrofi la ricetta del Wunderwaffer. Gli svizzeri accettano, ma il tentativo di riprodurre il biscotto in territorio extra svizzero riesce fallimentare. L'impasto del Wunderwaffer si rifiuta di lievitare fuori dalla propria patria. Nel 1920 viene concesso alla Svizzera di fare parte della Società delle Nazioni, solo nel caso rinunci al possesso della preziosa ricetta. In questa occasione viene pronunciata da Thomas Woodrow Wilson la celebre frase: se il Wunderwaffer non l'abbiamo noi, non l'avrete neppure voi. Gli svizzeri eliminano ogni traccia dello squisito dolcino e giurano di non produrlo mai più. La storia del Wunderwaffer, fine prima puntata. Wunderwaffer. Due giorni fa si è chiusa a Milano Uovo Kids. Ci sei andato tu? No, cos'è? Vedi, siamo sempre in ritardo sulle cose. Ma cos'è, Drago? Ma che ne so, ma non so, visto, non lo che, sai, sì, allora... visto che c'è stata una specie di fiera della tecnologia in cui venivano presentati oggetti, cose così che vanno bene sia per i bambini che per gli adulti. Oh, che bello. C'erano anche performance, workshop. Insomma, per un bambinone come te, sì, schiavo del tablet e del giochino di Super Mario Bros, era l'evento da non perdere. Era al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, proprio a due passi da casa tua. Sì, mi ricordo che io da ragazzino al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Sì. Perché hai messo tecnologia? Non lo so, forse ho sbagliato io. Vabbè, tecnica. Era al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, due passi da casa tua, dai. Due passi. Io tanto sto weekend sono andato a scegliermi la bici. Però non l'ho scelta. Ah, indeciso come al solito. Sì, ma non parliamone, sennò mi risale la scimmia. Dai, dai, dai, che lo so che devo... vuoi parlarne. No, no, no, vai, vai, parla di Uovo Kids. Vabbè, niente, no, resta da dire solo una cosa su Uovo Kids. Uovo Kids. Che per spiegare al pubblico il perché di questa manifestazione, i curatori scrivono così: così. Da anni è in atto un processo di avvicinamento generazionale con bambini e adulti che tendono ad avvicinarsi e a condividere territori ludico-estetici oltre che di consumo comuni. E quindi? È quello che diciamo noi e che dice anche Rodotà. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Sì, ma intanto io la bici non l'ho presa. Ma no, ma è una cosa da bambini la bici, dai. La bici, ma cosa dici? E Nietzsche che dice? Boh. Vabbè, ho capito che questa cosa ha a che fare con i 10 kg in più che ti ritrovi a mo' di salvagente. Di pancera di Faraday, per tornare al discorso di ieri della pancera antiradiazione. Sì. Ma quale quale Faraday, quale salvagente, Drago? E poi comunque muoversi fa bene. Sì, fa però è pericoloso. Lo diceva anche in modo molto interessante Matteo Caccia qualche tempo fa. Diceva che lui in bici a Milano ha paura ad andarci. E lui usava una radio nazionale per dire questo. Vabbè, tu stai usando una radio nazionale per dire che non riesci a scegliere quale bici comprare. Io sto dicendo che ce ne sono due che mi piacciono, attenzione, ma non farmi scendere nei dettagli, perché sennò poi potrei diventare pericolosamente logorroico. Il cambio non cambia, allora, due modelli che devi scegliere, e non sai, sai quale fare. Mi immagino, capite, perché io faccio questa proiezione, mi immagino a cavallo di una, dico come mi sentirei qui, poi mi immagino a cavallo dell'altra. E tutte e due ti piacciono alla stessa maniera. Sì. E magari ne arriva una terza ed è colpo di fulmine, come succede con le donne, sai scegliere. Due, tre donne, ma dove vivi, Drago, nel mondo dei sogni, tre donne. A volte mi piace sognare, lo ammetto. Che tra l'altro non ho mai capito se threesome vuol dire due donne e un uomo, o se vuol dire anche due uomini e una donna. MMF o FFM. Comunque io sono per il momento threesome con io e due bici e non so quale scegliere. Vabbè, adesso non pensiamoci adesso alle tue due bici, insomma. E come faccio, Drago? Io me le vedo lì, capito? Le guardo su internet tutta la notte e le penso e penso, vado con questa o vado con questa? Vado con questa o vado con questa? Vado con questa, vado con questa, vado con questa, vado con questa. Vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa, vado con questa e vado con questa. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui per muore di fame. I want to ride my bicycle. Vabbè, consigliate a Kappa la bicicletta da comprare a questo punto. Tu metti su Facebook, Kappa, quali sono i tuoi due modelli di riferimento e i nostri va bene, a domani. È la bicicletta, Bicycle Race. Ho capito. Che fa col pezzo tutto aggressivo, no? Poi fa bicycle. Quali sono i suoi modelli? Vabbè, andate su Facebook, troverete i modelli di Kappa.